Oh, arrivano le prime prenotazioni per la recita di Natale del 15. Ce ne sono già tante. Allora, ci è arrivata questa qua, guarda, però questa qua è strana, perché dice, allora, Claudio, Selma, papà, mamma, e poi figli. Allora, primo figlio, Leonardo Nicolas Mattias Luongo, figlio, quasi 7 anni, data di nascita 28-12-2004. Ah. Angelica Andrea Ludovica Luongo. Sì, ma la privacy, questi sono dati figlia, sensibili. Figlia, 5 anni, data di nascita 22-11-2006. Beatrice Gaia Azzurra Luongo. Ma quante sono? Vabbè. Figlia, 3 anni e mezzo, data di nascita 02-04-2008. Però poi dire. C'è anche, attenzione, aspetta, Lucrezia Ginevra Selma, figlia, quasi un anno, data di nascita 18-12-2010. Ma sai perché ha mandato tutti telefonico. Questi dati? Perché lei dice, magari per fare entrare i bambini c'è bisogno di autorizzazione, ha bisogno di tutti i dati dei bambini. Io glieli mando già, sono precisa. Ma con la mia prenotazione mando tutto, capito? Ma secondo me ha sbagliato, voleva scrivere a SOS Tata. Ma questa era di 24, mica la 7. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Martedì. Allora, sei contento, Kappa, martedì. Che il cambio di regime è il martedì o il lunedì, sempre, comunque, ha cominciato a farsi vedere anche su un argomento a te molto caro, e cioè le automobili? Cioè, il cambio di regime, questo Super Mario al governo, ha portato anche un cambiamento nelle automobili, perché... Monti ha dismesso l'Audi A8 di Berlusconi e ha optato per una vecchia Lancia Tesis, che erano anni che faceva la muffa in un garage di Palazzo Chigi. Bellissima. Eh? Ti piace? Bellissima. Cioè, tra Audi A8, che insomma, vabbè, c'erano tutti. Vuoi dire, c'erano proprio tutti. Come c'erano tutti? Vabbè, comunque non lo so. Comunque è meglio la Tesis è un po' retro, è leggermente retro. Di che anni è? Io non so niente. Ma non importa che tu sappia queste cose. Vabbè. Tra l'altro adesso sta uscendo la nuova, anzi è uscita la nuova tema, che no, però sembra tenere la Tesis, ha detto che lui tiene esatto quelli, proprio per quello, perché è uscita la nuova tema, tu dici vabbè, allora Marchionne, tac, è il tuo amico Marchionne, gli piazza lì la tema, così vedo, fa un po' di pubblicità, magari gliela regala, magari no, Jennifer Lopez il culone con la 500, Mario Monti con la tema, che poi tra l'altro non è neanche tanto una tema, perché deriva da una macchina americana, paro lasci parlare, vabbè, comunque si tratta di una mossa politica, capa di immagine, ormai Monti ci crede di essere quello che cambierà tutto, e quindi fa anche queste scelte un po', chiamiamole paracure, dai, perché il popolo così dice, vedi, bravo, uso la macchina vecchia, però bisogna dire che si allinea ai suoi colleghi stranieri. Perché tutti usano automobili nazionali, non so se le usano anche loro vecchie, però Sarkozy usa solo Citroën, Peugeot e Renault. Beh, no? Che modelli? Non si sa, non l'ho trovato, ma tu hai provato a vedere. Ma che tu provassi? Sei tu non che so, fai queste ricerche? Poi la cancelliera Merkel usa solo Audi o Mercedes. Che modelli? Non li so, questo è compressor del 99, quelli lì, no? Capito? Ma cosa compressor? Mentre Obama è fedele alla Cadillac, non so che modello, tu sai i modelli della Cadillac? Ma certo, sei tu che non li sai, ma tipo niente. Non lo sai, perfino. Cameron, dopo aver sempre detto di preferire la metropolitana, alla fine viaggia in Jaguar. Che però è stata una scelta difficile per lui. Perché è difficile? Perché si è tirato addosso tutte le ingiurie di tutti gli elettori, perché dicono, insomma, dai, tu dici che viaggi in metropolitana, poi usi la Jaguar, però se vuoi usare una macchina inglese, sei inglese, sei il premier inglese, devi usare una Jaguar, perché di Berlino in Inghilterra si sa, cosa vuol dire? Esiste solo la Jaguar. Ma non è vero, come c'è no? L'Aston Martin, c'è la Bentley, c'è la Rolls Royce, a parte che sono fatte tutte in Germania. No, invece la Jaguar. Anche la Jaguar, c'ha qualche pezzo fatto in Germania, anche del motore. E Cameron, quindi? Ma Cameron, infatti, è mezzo tedesco. Secondo me è una spia. Quando ero piccolo ci si chiedeva sempre tra amici, che macchina ha tuo papà? Io mi vergognavo, perché mio papà era socialista, ma di quei socialisti che dovevano avere la giardinetta e basta. Mentre gli altri avevano la 128, io avevo la giardinetta. Ma che socialista? Era tirchio. Il fuoristrada nero e il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero e il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un orologio firmato, il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato e il mio è un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa e il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa e il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. la crisi, capo. Ma cos'è questa crisi? Che cos'è? Canticchia. Così è la canzone degli anni del fascio, giusto? O tra prima del fascio e il fascio, quegli anni lì, c'era la crisi. Che la crisi passerà. E la crisi invece passerà, d'accordo, però adesso colpisce anche i bambini, perché paghette dimezzate, dimezzati anche i regali in generale, poi si usano gli zainetti dell'anno prima. Dimezzati. Sì, stop ai capi d'abbigliamento alla moda che impazzavano fino a qualche anno fa, non so, volevano le scarpe di una certa marca, i piumini, niente. Ritorno all'ego e ritorno soprattutto all'oratorio, cioè una vera rivoluzione attraversa la categoria dei bambini italiani. Vedi qua, carta canta, lo dicono i giornali. Ma se ne è accorto qualcuno? Come no, certo, se lo scrivono secondo i giornali. Secondo me è la solita bufala, Drago, dei giornali. Non sanno cosa scrivere, si inventano le tendenze che non esistono. Ma come non esistono? Ma lo fanno tutti. Qui siamo tra giornalisti, è una radio, un news and talk, vanno avanti così Zitto, non dire queste cose. Però bisogna dire che effettivamente, prima della crisi, andavi a casa di una coppia che aveva un bambino piccolo, e vedevi delle cose assurde, cioè sembrava di entrare in un negozio di giocattoli, capito? Poi c'erano cose come la festa di compleanno, biglietti di invito stampati in tipografia, affitto di disco bar, animazione, DJ, band dal vivo, insomma la vita vivo, normale di un bambino medio italiano stava sempre di più avvicinandosi a quella di un bambino da film americano. Vabbè, cioè noi vedevamo i film e dicevamo che io voglio quello. Ma perché alla fine è divertente organizzare una super festa per tuo figlio. Vabbè, per te che sei uno come sei è logico che sarà anche divertente, ti metti lì e pensi dall'A alla Z, tutto come se fosse un evento improvviso. Vabbè, però per tanti genitori invece era un incubo, ed è un incubo organizzare feste di questo genere, per cui adesso anche i genitori come i datori di lavoro hanno la scusa buona per stringere i cordoni della borsa e inaugurare una stagione di basso profilo, capito? Ma basso cosa vuol dire? Che adesso i bambini fanno la festa in casa con la torta fatta dalla mamma? È la torta fatta in casa, è sicuramente meglio di quella della pasticceria. Vabbè, ma non c'è la scritta sopra, le decorazioni, i pupazzetti, le cose, c'è una torta anonima. Sì, però è fatta con amore e non per soldi, no? Ma non è una torta figa! È una torta e non è, cioè non sarà figa, però è una torta. Che tra l'altro poi la figa è su una normalissima torta fatta dalla mamma, magari anche bruciacchiata, non buonissima, però semplice, soprattutto sana, no? Ma scusa, ma il clown? Ma vabbè. Ma come? È una festa tristissima, solo con i bambini. Ma ovvio, niente clown, ma costano un occhio dalla testa, c'è la crisi, si tornerà a fare le feste di compleanno come le facevamo noi. Quelle in cui ci si annoiava abbastanza e alla fine c'era sempre uno che piangeva perché voleva tornare a casa, capito? Vabbè, ma che tristezza. Vabbè, dai, facciamo così. Natale lo celebriamo ancora alla maniera lussuosa. No, dai, contente. Almeno facciamo una festa figa. Anche senza festa, Non puoi giocare così. Sì, bisogna essere in due da solo. Ma tu non sei capace. Vabbè. Allora, siamo tornati tutti bambini. Si dice qui a Chiedo Asilo. K è un esempio vivente. Però è particolarmente vero che si ritorna bambini quando si è anziani. Anzi, più invecchi, più diventi come un neonato. I due o tre capelli in testa, cammini a piccoli passi, inciampi, cadi. Però a differenza di quando eri bambino, non ti rialzi più perché ti sei rotto il femore. Capito? Ma che tristezza. Da vecchissimo non sai camminare, balbetti, farfugli, non sai parlare, hai due o tre antichi dentini di cui andare orgoglioso, mangi semolini omogenizzati, a tavola ti mettono il bavaglino. Vabbè, ma mica è sempre così, ci sono anziani arzillissimi, guarda il Presidente della Repubblica. Vabbè, lui sì. Dai, lui è più vicino ai 90 che gli 80. Non deve mica mettersi il bavaglino, lui e no, anche se dovesse metterselo, io guarda, lo stimerei comunque ma tantissimo. Certo, siamo d'accordo, però questo è il mio momento da guastafeste, per cui non guastarmi la festa e lasciami continuare. Vabbè, passiamo alla camera da letto dell'anziano. La camera da letto, un tempo teatro dei tuoi furori e ardori tuoi sensuali, cosa mi stai toccando? Adesso ha delle sponde per non cadere dal letto e teli di gomma, a pacchi di pannolone sui comodini accanto al telesoccorso, gli stessi walkie talkie dell'infanzia per sentire dal soggiorno se stai respirando, se ti stai lamentando o se ormai è morto. Thanks for Christmas, thank you for the joy and happiness that's going down. 15 dicembre, ore 21, Babbo Natale esiste, Chiedo Asilo dal vivo con K, Drago, Fabio Coriu Calabro e il bambino Alberto, forse anche Gildo. Per prenotare chiedoasilo@radio24.it, mettete come oggetto recita di Natale. A domani.